effettuato l'effetto robotico? La pandemia è fortissima ancora, eh. C'è entrato l'eco. Oh, fortissimo. Troppo forte e ha dato l'effetto incomprensivo, bro. Sempre allo stesso tempo forte. Boh, Gianni, cosa dici tu? È incomprensibile. Pone di normale, buono di sa. Forse va a me. Lecca, lecca! Ciuffa, ciuffa! Ciuffa, ciuffa! Ciuffa, ciuffa! È troppo forte, è fortissimo. Non ce l'hai una regolazione da 0 a 10, non ce l'ha. Guarda. E adesso sei bello, tranquillo, sei tu con leggero eco, il beep. Anche questa è la cosa che fa molto bene. Che cosa stai usando? Un leader? Positivo. Così va bene? No. Guarda, magari così va bene. No, abbassa, abbassa. Va a abbassare. Troppo forte. Guarda, vedere se va bene così. Mosci. Ma che sei? Due volte. Da mangiare le pomodoro. E appetito già. Buona pizzata. Ciao, ciao, Sam. Ciao, dimmi tutto. Voilà. Sono bene. Qua c'è tantissimo eco, super amplificato e troppo ripetitivo. È talmente forte che ti porta proprio quasi incomprensibile la cosa. Sì, guarda. Oh, troppo effetto camera, super amplificato e super ripetitivo. Molto distorta la modulazione, deve avere per un qualità. Sottetta, capito? L'effetto c'è, ma è troppo incisivo. Tutti gli effetti che hai tra effetto robotico ed eco sono troppo incisivi, non si comprano insieme, capito? Troppo forte. Ah, no, ma giustamente ti dando il mio consiglio, la verità. Se hai la possibilità proprio di regolare a dargli una via di mezzo, se c'è la possibilità, giustamente, poi bisogna vedere se è fisso, non lo so. No, non è fisso, così è comprensibile un pochino. E così sì, c'è questo effetto camera abbastanza accentuato, però le parole riesci a scandirle bene tranquillamente. Positivo, dai, posso provare ancora così un attimo. E così se ne mette robo, sì. Un positivo, l'altro sono un visitoso. L'effetto già è quello, Questa lavorazione va bene, non è che devi fare, ma va benissimo, così va bene. Positivo, capavoglio. Allora, dove l'hai tolta questo strumento? Tutto l'apparato, l'ho già capito, capa. Ah, tutto insieme all'apparato, Cos'è, nuova generazione o vecchia generazione? In particolare, lo troviamo in questo nome. Ah, se no, beh, va bene, non era poco. Poi giustamente se vuoi puoi togliere gli effetti e parlare, diciamo, normale, senza nessun effetto alla fine. Ah, cosa che hai preso così oppure devi acquistare? Così per prova? Ma questo è il mio. La verità è che te l'ho chiesto perché non l'avevo mai sentito. O forse non ho avuto mai l'occasione di ascoltarlo. Posso fare anche quello? Chi la domenica? E posso fare anche questo. Mi ha abbastanza apprezzato. Guarda. Antonello, e com'è il mio lecca lecca? Oh, buonasera, limpido e recolaro. Buonasera a tutti, Marco da questa parte. Buonasera Marco, compagnia mia e... dell'amico di Porto Torres, un apparato allucinante. Prego. Avanti. Buonasera, Massimiliano Bulldozer, buonasera, vi saluto a tutti. Buonasera, in compagnia di Antonello Riosi e Marco. Ciao, salve. Allora, ciao Antonello Di Ursi e ciao Marco, buonasera. C'è anche Sandro Tigre, buonasera da Porto Torres. Ciao Sandro Tigre, anche a te buonasera. Ma io non lo sento a Sandro. Sandro! E sicuramente sta manovrando e avrà attaccato qualcosa. Positivo, Antonio, proprio controllo questa radio, adesso un po' di tempo che non l'accendo. Guarda, la parte mia forse è chiaro, nella 68 fai da Santiago 7 a Santiago 9 picchi positivi, la radio è bella sotto il 5, pulita la parte mia. Ah, positivo, vabbè, lascia perdere il rumore sottofondo, cioè la televisione accesa. Va bene, ok. Antonio, se interessa qualcuno questa radio in vendita, Mamma mia, bella sicuramente sarà bella. Bisogna vedere se il prezzo è anche bello, come la radio. Chi è 640? Cable. Lo so. Allora, ci vogliono un po' di papazzoli, ecco. Due tre verdoni, cosa vuole sia? Due verdoni? Beh, da, non è male come prezzo, là, alla fine, per la parte in cui è. Ma non due, tre. Ah, capo, tre. Allora ho ascoltato male. No. Non è nella mia portata. Vabbè, quello che si fa della radio, diciamo, va. E proviamo a chiederlo a... che mi dico sempre il nome, se lo vuole acquistare lui. Va bene, avanti Marco. La quotazione è quella. 300 euro il 140 e sui 400 il 440. 430, 440, dai. Siamo lì. In dubbio, ma metti in mezzo la crisi e tutto quello che comporta, giustamente dovrebbe abbassare come prezzo, ecco, bisogna seguire i tempi. E appunto, infatti la crisi non fa parte del radio, nel senso che uno lo prende o lascia, ma la crisi non c'entra niente, il valore della radio è questa, poi la crisi è un'altra cosa. E non lo metti in dubbio, ma giustamente io lo metto in quello, in modo da avere, diciamo, una buona occasione per approfittarne, ecco. E infatti, a me non mi chiede pane, perché la crisi è una cosa a parte. La radio si vale questo e questo si vende, poi la crisi, chi ce l'ha se la tiene. E non lo metti in dubbio, ripeto, era sempre come ti posso dire, una via di fuga, no? Per vedere un po' se il prezzo è abbassata, ecco, il scopo era quello. Sì, capace, la 300 va 3x2. Certo che mi sei sprecato, Positivo, va. No, ma poi ero da, boh, forse un mese e mezzo che non volevo più con questa radio, l'ho provata a accendere a vedere se la cosa era sempre tutta a posto, va? Allora, vai tranquillo, sempre perfettamente funzionante. Da 20 watt, 25 watt di portante fionica, 80 modulati, va bene, va? Avanti Marco. E capa, esce bene là. La radio esce bene. E infatti, boh, anche io ci stavo facendo un pensierino. 300 euro alla fine mi compri un apparato, non dico di punta, ma medio, tipo, che ne so, l'Albrecht 5008. Tra spedizione e tutto il prezzo è quello. Oppure quell'altro Albrecht, bello, che hanno fatto da poco. Ci compri un barattino, diciamo, con più bande, più fiori, da. Un barattino però che non ti fa da 0 a 30. Ehi, infatti alludevo a quello, che le, Kenwood è, vabbè, chiamarlo baracchino è riduttivo. È un baraccone che ti fa tutto, tutto quanto. E c'è anche variometri. Diciamo che questo è un baracchino a sintonia continua, diciamo così, va. Ehi, ascolta, chi te l'ha seguito? Hai avuto bisogno di tarature, roba del genere, oppure tutta roba già tenuta bene? Guarda, questa è roba tenuta bene. Questa era per farti capire di Claudio Spaziero. Boh, lui li tiene bene. Se non è toccato né niente, è un buon apparato. No, questo non è toccato da nessuno, è aperto solo ed esclusivamente poco poco di ALC, tutto lì. Cappa, ho capito, sì. È bello anche 140, però non so se valga per esempio 100 euro in più il 440. Conta una cosa, che il 440 ha l'accordatore incorporato, che non è cosa da poco, perché se lo compri esterno un accordatore incorporato anche lo paghi a suo conto, però 100 euro in più la T, SAT, non mi ricordo la sigla. Sì, non mi viene. Sì, comunque non so se il 440 con 400 euro con l'accordatore automatico riesce ad acquistarlo, non sono molto sicuro. Allora, da Magic Phone, è un negozio di Lucca, ogni tanto rientra qualche usato, e praticamente i 140 costano sui 300 euro, poi se sono tenuti benissimo, cioè senza un graffio, anche 320, 330, ma proprio nuovi di banca, è un improprietario. Invece il 440 lo trovi sui 400, c'è stato solo un caso che l'hanno venduto a un prezzo maggiore, perché l'apparecchio era nuovo quasi di vetrina, cioè non aveva un graffio di leone, era estremamente resistente. Positivo, questo è un passato. Giustamente quello riferito a me. Io sono pensato a conoscere a tutti. Già mangiato hai? Ah, non ho mangiato un pezzo, non sto mangiando più di tanto. Mi sto regolando con questo figlio. Ciao Gianni, ho più rumore. Ciao Massimiliano. E comunque stavo ascoltando il 440, c'è la buffetta del VCO. È meglio il 140 secondo me. Vabbè già, io non ho detto niente, ho fatto parlare. Non lo so, volevo dirvi che quel negozio lì, anche se praticamente sono apparati usati, vi dà un anno di garanzia. A me 2 anni da dove l'ho preso io. Vabbè, Gianni, io, tu lo sai benissimo, qua a Sassari chi ha avuto il 440 se l'ha fatto fuori subito. sì, ne stavo parlando con Claudio l'altro giorno proprio di questo, che 140, 430, eccetera, eccetera, vanno tutti bene. Quello lì c'è quel difetto che dopo un po' di tempo ti fa questi puntini nel monitor e bisogna cambiare di bucina. Ma infatti io ho fatto l'esempio che questo era uno di quelli di Claudio. Claudio ha sempre detto queste parole, che preferiva sempre il 140 al 440, non ho capito il motivo. Quello che tu lo sai benissimo che era suo, ma comunque io preferisco sempre più questo qua che diciamo che è un baracchino sintonia, fa le stesse cose del 440. L'unica cosa è che giustamente quello là magari in più ha l'accordatore automatico, ha i filtri per l'FM, ha le bande, i filtri per le bande laterali, ma diciamo che fa sempre come la crepe 140 da 0 a 30, attenzione. Sì, ma si vede comunque l'accordatore lo può mettere sempre esterno, capito? C'è l'accordatore esterno che è quello dedicato. E va molto bene, ce l'aveva Claudio, ce l'aveva anche Franco California, mi pare che ce l'aveva lui da conoscere esterno. Sì, ce l'ha ancora, ma poi io dico anche un'altra cosa, ma cosa ne fai tu di un accordatore che non te lo puoi fare da in bande radioamatoriali? Ecco, è tutto lì il discorso. Io se voglio vado, ascolto, sì, giustamente ti accorda l'antenna con la banda che sei, ma giusto per ascolto e basta. Ehi, papà, anche quello può essere utile. Praticamente c'è un'antenna da 27 e vuoi ascoltare, che ne so, i 40, accordi un attimo sui 40 e quando accorda praticamente senti anche meglio lì. Oppure anche 27 è utile, metti che c'è l'antenna un pochino così così, no? Che copre pochi canali, se devi andare, che ne so, i canali alti, accordi. È sempre utile, ricordate. Sì, attenzione che io ho detto che tu accordi solo per ascoltare, ma alla fine cosa ti potrebbe guadagnare? Due Santiago, tre? Conta che non sono pochi però, metti che c'è un segnale proprio quasi non ricevibile e con quello ti passa a due, a tre. Vabbè, comunque sono tutte belle macchine. Anch'io, sai cosa non mi piace un po' del 140, la verità? Quegli slider, cioè anziché i potenziometri, gli hanno messo quegli slider a scorrimento orizzontale, che sembra un po' una cosa, non dico superata, ma... C'è una fatta corso. Guardate a quello, appena lo tocchi, quegli slider lì sono veramente una cagata, però come, diciamo, come macchina è buona. Infatti, rendete conto, sono macchine già di 20 anni, 25 anni e tengono sempre il prezzo di 300 euro. E poi tu come si intende? Che vuoi una marca all'avanguardia? E vabbè, diciamo che già adesso, in questi ultimi periodi, ci sono anche altre marche che sono a livello di Kenwood e forse anche superiori. Nel 2013 parlo, attenzione Gianni, ci sono messi proprio all'avanguardia. Scusate che sto bevendo. Che si è abbastanza avvicinata alla Kenwood. Eccola. Iaesu si è avvicinato a livelli di Kenwood. Sì, sì, Iaesu sarebbe già parato. La tanda di dubbio. Ma comunque deve ancora mangiarmi di pasta per arrivare ad avere radio 25-30 anni come ci hanno queste sempre funzionando. E infatti quello che diceva Marco, che una radio di 25 anni tiene sempre il valore di 300 euro, infatti, ecco perché Va bene, dai, io sono entrato così, già un po' improvviso, era due mesi spenta questa radio, adesso stasera l'ho accesa, e almeno un tre ore accesa, e sono entrato, vi ho sentito Antonello, ho sentito Marco, sono entrato giusto per un controllo, per vedere se la cosa era tutta a posto, no? Facciamo riprendere Antonello, io ho detto questo, vi saluto, con la buona serata, continuo di QSO, vi saluto a tutti, dai, ciao Gianni, ciao Marco, ciao Antonello di Ossilandia, riprendi tu Antonello, io vi saluto, QRT per me, grazie dei controlli, grazie di tutto, buona serata. D'accordo, grazie a te per questi passaggi, va benissimo, bene o male. Siamo sempre qua, signor Guglia, d'accordo, buon proseguimento di serata. Avanti Marco. Capo, ciao l'amico, ci sentiamo. Comunque sì, è sempre un bel apparato, basta tenerlo bene, dura altri 25 anni. Avanti Gianni. Capo, ciao Massimiliano, buon continuo serata, tanto lo so che tu sei notturno e sarai organizzato qualche uscita. Ma no, dove sei chiuso? Andare, Antonello, a te il Michelino. Via. E dunque già vedi, già avevo ragione, non era il mio sillo perenne, che l'apparato aveva queste piccole cose. Dai, ti ringrazio per la tua disponibilità. E ma figurati, c'è problema, quando si può, favore si fa. No, io non ne avevo dubbi, Antone, intendiamoci. Ma se cos'è? Che è come la macchina, no? Ci fa il difetto, la punta al meccanico va bene. Tu la riprendi tu, cazzo ti facciamo il difetto. Succede sempre così. Ma sai, il discorso è quello che io proprio per la strategia di scrivere abbonato, ma non sa mai che non mi spiego bene o che abbonato, ma allora mi è fatto pensare la videocamera, mio fratello ha filmato, ecco, non ha problemi, ma direttamente, diciamo, registrato, che poi alla fine come che sia in diretta, ecco, io l'ho fatto vedere, dice a me non me lo fa, tanto lo porti a casa e giustamente fa quel difetto, giustamente lo fa anche la terra, lui pensava, non sa mai che era un disturbo da me in zona, ma io fortunatamente non ci sono pannelli solari, non ci sono ripetitori, dunque sono 12 anni che abito qua. Gli altri apparati che io non hanno mai fatto, diciamo un problema suo particolare, ecco, alla fine. Dunque già quella cosa giustamente si può escludere, poi giustamente abbiamo cambiato zona di trasmissione, lo fa anche a te, dunque diciamo il suo problema personale, ecco, da risolvere. Antonella, sai cosa c'è? Che praticamente potrebbe essere anche un apparecchio a radiofrequenza, tu non lo sai, magari qualcuno sta facendo qualche terapia con qualche apparecchio a radiofrequenza, tu non lo sai dal disturbo, capito? In effetti è come quattro occhi, sono meglio di due, no? Ah, Spagna, ogni passata, l'ho sentito là già. Che la Guglia. Attento mio hermano, attacco il suo locale, quel X per favore. Non è mudino, come da ribiola. Ah, ma ieri verso le 10, 10 e quarto ho fatto un piccolo passaggio in Alta Italia, purtroppo ho durato 10 minuti. Comunque l'unica piccola propagazione ieri tutta la giornata, ne ho approfittato, arrivavo a Portechiaro e poi giustamente se ne sono andato. E non vai e vieni ieri, peccato, sul canale 8. Attento mio hermano, ve la scusiamo per aver del caramello della città del Sassari che ti super cordializza. Dico mio hermano delle Spana, scusi l'operatore Gianni Lupiorun della città di Sassari, nord Sardegna. Passa dalla propagazione. Sicuramente come ieri, vai e vieni. Era così, oscillava moltissimo la propagazione ieri. Avanti, Marco Condor, e adesso mi sono ricordato il nome. 5 SEO si fanno in banda laterale, non c'è paragone. Lo so, ma non si può. Ma non si può sui canali alti, lo sai che ci sono anche apparati omologati con la banda laterale, mi pare che siano omologati a 8 watt o 10 watt dalla nuova regolamentazione, e anche con 8 watt puoi fare dei BDX, soprattutto tu che sei in alto, sui canali normali. Aspetta, io mi ricordo che esiste in commercio, poi per quanto sono io informato, il Midland 8001 XT, è quello sì omologato, dice, per le bande laterali, però bisogna vedere in quale bande va. Tu giustamente per fare questo, come dici tu, devo mettere il Galaxy in USB e cambiare la banda da C e andare in D, dunque devo salire di su alla fine. Adesso facciamo un esempio, aspetta, allora se io faccio così, ecco, canale 12, io dovrei andare in 27 555, vedi, già in quel caso sono in banda amatoriale. No, proprio per niente, la banda amatoriale inizia di 28.0. 28.0, aspetta un attimo, però io in questa presenza che sto dicendo io adesso, 27.555, noi in CB non possiamo entrare. No, in teoria no, ma ci vanno tutti. E i controlli non ne fanno perché ormai c'hanno cose più importanti da fare. Beh, se lo metti in questo caso, sì, comunque volendo a termini di legge ti possono dare anche due beccacci del sedere alla fin fine. Ecco, io intendo come banda amatoriale questa, da quella banda lì che il canale 12 sa che è il canale di chiamata, ti da arrivare al 40 giustamente come il Galaxy, per dire, ecco. A me piacerebbe parlare lì, però non puoi. Allora, le porte omologate hanno 40 canali per banda e praticamente anche nelle bande USB e USB hanno 40 canali, oltre quelli non si può andare e quindi per legge chi supera i 40 canali è punibile. Detto questo, regolatevi. Ah, quello che sto dicendo io giustamente è che se tu vuoi, lui per dire CD, banda cittadina, in 27.555 noi non possiamo entrare, ecco, ascoltare sì, ma intervenire no. Ascoltare per ascoltare anche le varie bande radioamatoriali, se si esce più VL come sono io, però entrare non puoi entrare, è quello. Che gli altri entrano, c'è gente anche chiamata, ma non è che sia lecito farlo, c'è gente che ruba e non è lecito farlo, lo facciamo una pecora, perché lo fa uno, lo devo fare tutto. Già, però conta che quando andate sul 45 è la stessa cosa, allora perché sul 45 sì in AM e sul 27.555 non in banda laterale, è la stessa cosa. Sì, non si può fare nemmeno andare sul 45. Ah, beh, allora già che siamo sul 45 andiamo in banda laterale, no? Io ci ho fatto qualche bel QSO, arrivano anche fortini, però la propagazione non è quella di adesso, la propagazione era quella alla primavera, in primavera era eccezionale. Adesso è stato uno schifo. Se per questo c'è gente che va su 45 metri, non c'ha patente, non c'ha nulla, e vanno a migliorare su 45 metri. Se li cassa lo sono a fare loro. Ehi, già, aspetta che levo l'eco. Può dar fastidio, un attimo. Ehi, già, ti volevo dire, allora, 45 metri. Sarebbe un reato grave, perché quella è banda aeronautica. Ci sono gli stessi vecchiacci, che sono o abusivi o ex radioattori, che sono una vita sui 45, una vita. Non li hanno mai voluti levare di mezzo, quindi vuol dire che non fanno niente. Fanno cose di altro tipo disturbi alle reti TV, disturbi alle radio FM, tutte quelle cose lì. Quelli non li toccano più, no, non si muovono proprio, non fanno niente. E questa è la uscita. Allora, se fortuna poi ce ne riparliamo. Non pensarla così, Marco. Sai che c'è un proverbio che diceva non svegliare che anche dorme. Esatto, però non lo metti in dubbio, ma lo sai così il discorso? Che alla fine non conviene rischiare, che perché purtroppo, questo bisogna dirlo, ci sono tantissime persone che ascoltano, vogliono fare i bastardi, aspettano il momento giusto, telefonano e lui tranquillo e pacifico se ne sta seduto, tu nel frattempo si è inchiappettato. Questo perché c'è molta gente anche che è in ascolto, che se vuole può fare tranquillamente il cattivo. Dunque alla fine devi ragionare anche in questo caso qua. Stai tranquillo e pacifico, dove puoi stare e ti diverti così com'è. Scusate, mi sto misurando la temperatura, che mi sento caldo. Sarò in calore. Stavo dicendo, sì, anche quello vale, il discorso non svegliare qualche dorme, però allora come mai quei pescorie della frequenza amatoriale sono ancora sui 45 metri da una vita e non fanno nulla? Domanda e risposta. No, è detto, tu non lo sai se hanno provveduto, se lo hanno provati ancora, bisogna vedere. Ce ne sono tanti, diciamo, che sentivo anche io facendo ascolto, Pippo, Radio Pippo, l'altro si faceva chiamare, non mi ricordo come, Paperino, aspetta, io sempre ero Paperino, io sempre ero Pippo, ce ne erano tanti, e poi parlano anche male molte volte, sono amici per ragioni brutte. Lo dissi, io le sentite una sola volta, ma ho girato con la frequenza che cagate, insomma, sono discorsi peggio dei nostri, dai. No, no, sono proprio a livello di parolacce, bisticciano, napoletani con siciliani, ho sentito mille volte bisticciare, infatti ho detto di entrarci perché non so cosa piacevole da sentire, ecco. No, invece devi entrare e dire brutti infami, ma perché non ve ne andate? Nel momento passano a me. Ecco, dai, però meglio fare ascolto e stare zitti. Io tante volte passo ore ascoltando degli amatori, e così è piacevole, mi rilasso, la luce spenta, con le cuffie nelle orecchie e via. Quella frequenza è questo già? 45 minuti. Ok, quindi per il tubo digitale 45.000. No, negativo, sui 20, no, sui 1000 qualche cosa, vero? Io l'ho trovato così, l'ho trovato girando, sui 1000 qualcosa. Allora, Antone, potrebbero essere dai 6.005, cioè 6,5 MHz, a 6,7 MHz, dovrebbero essere intorno alle 6.006, cioè quando noi diciamo 6.006 intendiamo 6,6 MHz, 6,5, 6,7, capito? Intorno a quella zona lì. Perfetto, sempre in USB, perfettissimo, domani provo. Tanto sicuramente li sentirai la mattina e la sera, poi la notte no. Non c'è più propagazione. Potrebbero essere in LSB. LSB, ok, d'accordo, domani provo. Anche io voglio fare il pirata. Mi prendo il 140, mi metto l'antenna a 45 metri e faccio il pirata. E scommetti che non vi fanno niente. No, vedi, in questo caso è già sbagliato. Dovevi fare e non dire niente. Ma tanto ti sentono tutti, figurati, anche con 5 watt arrivi in continente, soprattutto al centro di ascolto radio di Roma, figurati. Non lo metto in dubbio, quello sono pienamente d'accordo, però le orecchie sono grandi e la gente se vuole cattiva, e dunque bisogna fare furbi. Volevi dire niente, fallo e stare zitto, lo sai solo tu. Oh cacchio, andiamo male, 37,2 MHz, tra 37.2 e 37.3. Ecco che c'era qualcosa sotto. No, non è sempre quella, eh. Oh, non è niente ciò. La vignetta potrebbe essere un fattore. Allora, già, vari giorni fa mi ha preso questo fastidio, questo indolenzimento alla trachea e ai polmoni. È presente dove si doppia la trachea con i polmoni? C'ho residuo tuttora e poi mi sento tutto strano, come una cosa influenzale. Sto prendendo tachipirina che ha paracetamolo e nel caso abbassa anche la lieve temperatura. Ma l'ha preso anche colpo d'aria? La? Qualche colpo d'aria, a pizzorra, molto si è andato? No, niente molto, non ne ho più. Allora, io l'altra volta mi sono messo il clima diretto al petto, per pochi secondi, oppure ho preso freddo o da Eurospin o da LD o tanti altri posti che usano il clima a manetta, proprio a manetta. E lì, guarda, risolvi il problema, l'aria condizionata. Sì, infatti, sicuramente è quello. Io ce l'avevo attaccata solo la mattina, la sera ci fanno sudare. Non è che mi sta venendo la fiaria, no, a furia di andare nei negozi cinesi. Ma la sera è andata a dormire, no? La tubercolosi. Lo stavo pensando anch'io, è la verità. Malattia tropicale. Allegri, non ti avvicinare. No, guarda, non c'è pericolo, donna è zero. Ormai, io ormai ho appeso l'uccello al chiodo. Sì, allegria. E lo lasci così, a seccare sotto il sole. Usalo finché ce l'hai. Uia, uia, vabbè. Sì, comunque mi sento un po' strano da alcuni giorni. Magari è la viaria davvero, mi crescono le ali. E diventa un pollo. Comunque già oggi ero a... ti ho chiamato lì in Piazza Castello. Cioè, c'è una marea di gioventù che è impressionante, ma in giro di un quarto d'ora due venerizie, guarda, impressionanti, incredibile, pugni, schiaffi, calcio, cosa non c'era? Incredibile, la gente molto si voleva le gusti, abusi proprio. Ora ci possiamo fare, dice, è questione di ogni giorno, è sempre così qua. Ma in 5 minuti, guarda, tutti i giri, c'è gente che sta massacrando. Poi il bello, ma immaginate 300-400 ragazzi lì, che tutti circondati, loro lì che ci picchiano, guarda, impressionante. Ma che sera? No, ragazzi, gioventù, gioventù. Poi, dopo che è successo l'altra vita, ne stava succedendo una terza. E questi sono spostati, non sono andati giù per l'emiciclo. E tu mi vedi questa via centrale delle poste immensa di ragazzi, tutti curiosi che li seguivano per vedere com'era la rissa, guarda, incredibile. E tutti lì fuori dai negozi, anche lì il macellaio con il coltello in mano, guardando, e me l'ha fatto proprio lui, guarda, è questione di ogni giorno, è sempre così qua. Ogni 5 minuti c'è una rissa, ormai ce l'ho fatto il callo. Ma guarda, è incredibile, una marea di gente tutti inseguendoli per vedere lo spettacolo, guarda. Era da filmare. Sul Val di Notte è tormentoso, ci infila la cima. Quello l'ho già visto, dalle 8 quando apre, già l'ho visto un via vai e di siringhe, che schifo, guarda. Quando ho detto questo, guarda questo in testa, io dovevo... Praticamente c'è la Manuela piccolina, aveva il vizio di coricarsi nel nostro letto, Manuela. E poi la passo lì di letto e la metto con il suo letto prima di coricarci. E non la stavo trasferendo e mi toccava delle chiappe, l'ho comprovato tutto il corpo pieno di chiappe. Allora cosa ho fatto? Sono andato in farmacia. Siccome era stato un compleanno, sicuramente i pasticci che ha mangiato gli hanno fatto vedere questa orticaria. E sono andato a prendere davanti al medico e ho fatto la fila quando sono arrivato, quando ho toccato a me, quella signora ha visto questo qui, è entrato, grazie a Cicatti, grazie, cioè, se lo fa passare, ma fa la fila come la sto facendo io. Io vedo questa cosa che è urgente per mia figlia, lì sta prendendo la cinghia, non me la futilizza a me, se si deve fare. Io sto andando a prendere una cosa per mia figlia. Prima mi serve a me, poi serve a lui, davanti a lui mi glielo detto. E lui è zitto, no? Grattandosi la testa, ragazzi, deve essere la scimmia. Dio mio, io alla fine, guarda, con le condizioni, è convinto che ti stava ascoltando la porta del battere, oh, era già immerso nelle sue paranoie. Lui non vede il valore di... Ti dicono una e una, un'acqua e una, una siringa e l'acqua là. Guarda, veramente, guarda, qui la stanza è piena, purtroppo, Ho notato moltissimi signori di una certa età con questi brick di vino in mano, ed è abbastanza accentuata passateli ultimamente. Non è che comprino un vino di chissà che cosa, uno di quei vini a 39 centesimi, immagino che stanno bevendo. Comunque è abbastanza piena Sassari. E il tavolo costa poco. Allora, questo purtroppo, e poi abbiamo fatto un giro con mia moglie a Pianuti, piano piano, sta chiudendo quella famosa gioielleria che si trova lì, dove c'è Zara, sta svendendo tutto, liquidazione totale, perché c'è un'attività, ed è completamente pieno di gente comprando, guarda, è incredibile. Buona, buona. Vamos, mi hermano, vamos, me escucho. Perché dicono che non ci sono soldi, ma la gente che ha soldi c'è sempre. Da qui c'è, è vero, c'è. Però molta gente si copre con la storia della crisi e magari soldi ce li ha uguale. C'è gente che guadagna 3.500 euro al mese, voi non ce l'avete i soldi per comprare queste cose. Conosco un po' di gente che piange miseria, poi c'ha tre stipendi in casa, cazzo, abilitazioni, capito? La gente piange miseria sempre, come la mia maestra delle elementari. Piangeva miseria ed era tutta ricoperta d'oro, collane d'oro, anelli d'oro. Sì, è proprio un'abitudine. Piangere miseria ma diciamo il principale che sono i principali non sono mai contenti, quindi ne ho detto appena di gente di conosce perché ci si fa la fame, che qua è là che non si vede, si lamentano sempre e poi vedi magari più ore. È esaurito questo? È abbastanza, già un po' poco. Sì, quello già è vero, giustamente c'è molta gente che si trova in difficoltà, e altri invece giustamente che stanno bene. Alla fine ho conosciuto tantissime persone che se ne fregano altamente dalla situazione, facendo ultimamente dei traslochi, che hanno poche di case per carità, immobili, ma veramente belli, anche di un certo stile, comunque ce ne sono, io ripeto, dentro il negozio era completamente pieno, c'era la fila, e la gente che entrava, e guarda, non so se ce l'è presente questa gioielleria, adesso non mi ricordo il nome. Casa fondata c'è scritto nel 1820, con il nome adesso non me lo ricordo la verità. Comunque era pieno, cioè c'è un'attività e dunque compete abbastanza portabile e c'era gente dentro. Anche giustamente tanti che lì guardavano le vetrine e poi tiravano dritti. Un sostegno del tempo e andavano a farsi. Ademaro Rossetti. Esatto, sì, Ademaro Rossetti, sì, proprio così. Di fronte alla piazza, dove hanno messo lì l'albero d'ulivo, leggermente più giù, c'è l'edicola, sì, quello. A me dispiace vedere cose secolari chiudere, perché questo è un periodo infame proprio, una cosa schifosa. Mai vista una cosa del genere. Tutti i negozi, noi andavamo in piazza Torano al mercatino. tutta Piazzatola morta, tutte le vie che andavano via Mercato, tutto morto, tutto deserto, uno schifo, è diventato una specie di esporche poi, perché nessuno pensa più nemmeno a pulire le facciate dei negozi, no? La strada di fronte ai negozi, proprio una cosa terribile. È desolante. Io ancora mi sono fatto un giro a passare quando mio figlio vedevi tutti a faccia consente, le ruti principali dove andava a comprare le cose da ragazzo, anche i ruti Wrangler, grazie posso dire della Levis, eccetera. Chiusi, non ci sono più, completamente svuotati, eppure trovi le volte nell'uscio del negozio a braccia consente che guardano le macchine che passano. Sì, è vero, che tu diciamo, negozi storici, sino adesso giustamente, che quel poco che durano, erano negozi storici lì a Sassari, tu facevi anche un bel giro, è vero, guarda, io facendo un giro oggi ho contato sei negozi chiusi lì, solamente facendo un circondario del grattacielo. Ho fatto il giro tondo, la Spirello scende giù, portali dove c'è la gioielleria risali, lì tutto intorno, hanno chiuso 6 negozi. Adesso sono rimasti aperti dei bar, gelaterie, questo Alcott, che è abbastanza abbordabile come prezzi, nel vestiario, e poi vedete non c'è altro, una libreria, non c'è altro lì, solamente diciamo piccoli locali dove ti consumi un gelato, un pacco di sigarette, un caffè e tiri dritto. Non è rimasto altro, ecco la verità. Era più che il moccarò. Ah esatto, sì, c'è anche quello, dunque sono 7. Il moccarò era un punto di riferimento, non è che ci troviamo, io mi ricordo la ragazza, io andiamo a moccarò a prenderci la cioccolata, io di inverno specialmente. E con te andavano tra amici o 4-5 con te e spendevano la cioccolata con la panna e cose, si beveva una cosa calda, un ponci con la fiamma, e diciamo che era un punto di ritorno là. Ci siete, vi ho sconvolto. E un po' sconvolti siamo. Perché se mangi troppa cioccolata poi ti fa diarrea. Penso che sono un Nutella dipendente. Io ho una collega, una commessa che proprio è tipo drogata, lo sai che se non la trovo si mette a piangere. Si alza la notte, la mangia a cucchiaino e si prende quelle grandi grandi. E vabbè, quelle sono malattie. Non ho capito già, hai detto che c'è questa collega? Praticamente è molto la dipendente, è come se fosse drogata, se non la trova, c'è la parte di notte per mangiare a cucchiai, si compra di quelle grandi, enormi, che usano nei bar, no, per fare le crepe, eccetera, eccetera, quelli caratto di grandi. E se la finisce, che non se ne accorge, si mette a piangere. Dio mio! Livelli proprio mostruosi. Come conosco, vabbè, mia comare, quella dipendenza della Coca-Cola, qui che devono essere in città, la madre aveva la pancia, ed era la Coca-Cola che la gonfiava. Infatti, ma so quanto ne prendeva, mio marito mi faceva comprare Coca-Cola, mi parlava, metterla in garage, quando finiva, ma in garage a prendere la Coca-Cola, che finita. E guarda, per la Coca-Cola ci sono passato anch'io già, quando ero ragazzo, cioè avevo 16 anni, è solo stato un anno che, ma la verità non ti voglio dire cazzate, poi oltretutto lavoravo in discoteca, così tutta la settimana tu facevo sempre a portata di mano, come e quando volevo, e come la volevo, ma non ti voglio dire cazzate, io al minimo al giorno me ne prendevo, cazzo penso un 3-4 litri al giorno, e ogni giorno per un anno consecutivo, le notte mi svegliavo a bere Coca-Cola, attenzione, mi svegliavo apposta, per bere la Coca-Cola. Anch'io ho avuto la passione, però magari non così tanto, bevevo al limite un litro massimo. La sensazione ti dà, c'è la caffeina magari che ti porta a sensazione. Oh, adesso ve ne racconto una. No. In California hanno brevettato la Nutella, scritto Nutella. La confezione è simile alla Nutella classica, è tutta un'altra cosa, è un'altra marca. Si chiama Nutella ed è Nutella al cannabis, col principio attivo, e la danno con prescrizione medica. È come le camere, prima ci aguardano tutti. Ah, così, e te lo spalmi nel panino e diciamo, e inizi a sorridere. Interessante. Chissà se ce l'avessi io, mi ci faccio il bagno. No, proprio il bagno no, però una fetta. Una fetta di pane con quella Nutella particolare, volentieri, con tutto il cuore, guarda. Se stavo pensando quasi se si poteva ordinare da internet. Solo che se ne accorge la dogana mi rompe il culo. Sicuramente sì. Ma mi sembra strano poi in America che sia legale questo modo di drogarsi. No, dietro ricetta medica. Praticamente è come se prendessimo un oppiaceo che si usa come antidolorifico, capito? Come può essere il Vicodin e un oppiaceo, c'è anche un altro, il Vicodone, una cosa del genere, dai. Guarda, questo te lo garantisco io, te lo garantisco. Comunque ho conosciuto tantissima gente, anche persone di una certa età, che avevano problemi agli occhi. E dunque tutta la loro vita dovevano usare un collirio, però questo collirio col passare del tempo dà problemi ai reni. Adesso non mi ricordo come si chiama questa patologia. Comunque c'è un metodo, a quanto pare funziona. Abbiamo fatto anche su internet, ho dato una ricetta, dunque fumandoti una canna al giorno, anche 3-4 tiri, ecco, l'importante è che ci sia erba, non ti dà più problemi l'occhio per tutto l'arco della giornata, finché non svanisce l'effetto, diciamo, dell'erba, ecco. In quel caso lì prendi di fumare e risolvi il problema per tutto il giorno, cosa che giustamente non si può curare, ecco, ti rimane per vita questa patologia. Oppure di usare questo collirio. E c'è molta gente che si cura in questo modo qua, con l'erba. Addirittura c'era un tipo, mi pare che aveva vinto una causa perché la usava a uso non terapeutico, una specie di uso tra la religione e non so cosa. Non mi ricordo se era in Italia o negli Stati Uniti che ha vinto la causa. Come dire, l'incenso nelle chiese, lui usava il cannabis, tipo un rituale, una cosa del genere, capito? Ah, ecco, dunque non l'hanno condannato. Non so se l'hanno sentito, adesso non ricordo come si chiama questa piccola malattia nei non me lo ricordo. Comunque, c'è gente che si cura così, se la fuma, e sta tutto il giorno tranquilli e pacifici, senza nessun problema. Per esempio il Vicodin che usa il dottor House praticamente è idrocodone ed è un oppiaceo. Poi c'è anche l'ossicodone che è sempre un oppiaceo però con formula diversa. E giustamente è sempre un antidolorifico abbastanza potente alla fine. Sì, certi sono per dolore medio e certi per dolore medio severo, cioè medio alto. Perfetto, sì, ho capito. E dunque in quel caso House si è assuefato la propria medicina, mettendo sempre in ballo che gli fa male la gamba e più. Grazie pure di testa con il personaggio, ma stranamente ha sempre ragione, ecco, ha un modo di vedere la vita completamente diverso dalla massa. Che poi lui, praticamente, non so se sai nel telefilm come mai gli fa male la gamba. Lui praticamente ha avuto un infarto del muscolo della gamba. Se tu rivedi la coscia, si è vista in una puntata sola, ce l'ha tutta come, non dico mangiata, ma tutto corrugato, tutto strano il muscolo. E il film giustamente poi in realtà già è fortunatamente stato come un pesce. Sì, lui sì, è anche un bravo cantante, suona, diciamo, c'ha un gruppo suo. E se non sbaglio fa musica country o solo, adesso non mi ricordo, forse è la musica country. Sì, mi pare sia una specie di pop country, genere così, lino anche. Infatti lui ha lasciato il telefilm per continuare a suonare col suo gruppo. Infatti si è visto che è stato un bravo personaggio, un bravo attore anche alla fine, già fa il fatto suo. Avanti doppio, lo sta dirigendo la pista. Ma di chi state parlando? Sotto l'auso. Non avevo capito perché stavo facendo un cambio. Come ascoltate da questa radio? Forse è chiaro, ha un leggero eco, sì, con la modulazione preferivo la prima. E vabbè, ogni tanto si fa scaldare un po' questo apparato, perché sennò rimane troppo fermo. Che apparato è? Questo. E io? Questo è il 980 della Magno. Ah, eri arrivato al 980, minchia. Non consuma niente, no. Quanti batti già? Due watt è così, e quando alzi? Quando alzi ne ha 5. Sì, con una zero in più. Go. All'infinito si è arrivato a 9.30. Bello, si è scaldando, sto facendo benissimo. Io l'ho visto, è veramente bello, molto molto bello. Allora, a me piaceva il Magnum classico, l'S9, no, però aveva delle cose irrisolte. C'era un ricevitore che aveva dei problemini, che non mi ricordo se era poco selettivo, se aveva QRM, capito? Praticamente era un apparato bello, con tante funzioni, però con ricevitore del 48, quasi, per fare un paragone, no? Poi, man mano che hanno fatto le versioni, dovrebbero averlo risolto. Tutti cazzati, so. Oh, già, era risaputo. Vuoi sapere cosa ne ho avuto di S9? Io ne ho avuto 3. Bruciati. Non tutti bruciati, venduti e migliorato magari con l'apparato, però sono sempre andati benissimo. Ne ho venduti uno, c'è di cui ce l'ha anche Bobo. Quello che sto usando Bobo è il mio, quello l'ho venduto io. E se volevo dire già, lì vendendo, fa un giorno ti viene da l'ultimo di venderlo. Quanto dovrebbe costare in seconda mano, giustamente? Questo nuovo costa 490 euro. Dunque, seconda mano dovrebbe essere 220 euro. Non ti dico che cosa. Mi sta facendo dire, da voi mi dai. No, per quello, dunque, se di prima mano viene poco, in seconda mano giustamente dovrebbe arrivare alla metà, ecco, io sto dicendo quello. Poi correggimi se sbaglio. Guarda che l'S9 lo vendono 300-330 euro secondo mano, quindi questo quanto lo dovrei vendere secondo la testa tua? allora, era una battuta, comunque, di regola dovrebbe funzionare così, ecco, alla fine, o sbaglio? Di regola. Non è detto che le regole siano sempre mantenute, giustamente. No, non è così che funziona. E perché devi vendere per forza a metà prezzo, secondo mano? Quando il mio non ha manco un graffio, è tenuto perfettamente, è usato pochissimo, perché tu come vedi lo uso poco. E ha un valore come se fosse nuovo il mio, capito? È nuovo, non c'ha niente, un graffetto se glielo trovi te lo regalo, non c'è un grafico, niente. No, ma ci credo, infatti è una cosa rara, mica lo usi tu. Due ore nell'arco dell'anno, poco e niente, è vero. È proprio una cosa rarissima che utilizzi, veramente d'accordo. Io ogni tanto li faccio girare perché è giusto che scaldino tutti, infatti adesso mi anche il Milan lo devo accendere perché sono da un po' che non lo accendo. Ma... Comunque quel magno l'ha comprato nuovo di zecca, giusto? Sì, tutti i magni che ho avuto li ho comprati nuovi dalla casa. Chi? Tecnocomunicazioni. E lui lo vende? Quel negozio ha un difetto grosso grosso, molto grosso. Quando li scrivi per sapere qualcosa non rispondono mai. A me mi rispondeva sempre, addirittura mi scriveva Desiree. Io ho fatto amicizia con la proprietaria, che è una ragazza giovane. Mi telefonava se aveva apparati per dire, loro fanno le fiere, rientrano apparati anche a seconda mano e quando trovava roba nuova perché mi conosceva che a me non mi piaceva la roba graffiata, roba, mi telefonava, mi mandava l'email, Gianni guarda che abbiamo ritirato quello di questo apparecchio, se ti interessa è buffissimo. Tant'è vero che io lì avevo acquistato un tempo di 140 e mi ha detto l'apparato è nuovo, il microfono MC60 è un po' consumato, non graffiato ma consumato, se ti appinti a verniciarlo, però conoscendoti mi ha detto non te lo mando. E gli ho detto mi conosci bene, mandamelo nuovo. E allora diciamo che risponde solo se la roba è costosa, da, se no non ti caga. No, no, no, perlomeno io, guarda, mi sono trovato sempre bene, tanto è vero che mi è arrivato un pezzo sbagliato, gliel'ho mandato, mi hanno rimandato quello giusto, mi è arrivato un alimentatore difettoso, me l'hanno cambiato, io guarda, mi sono trovato sempre bene. Sara, io due volte gli ho scritto per chiedere una cosa e due volte non hanno risposto. Una volta mi hanno mandato un articolo sbagliato, era la roba da pochi euro, tipo 20-30 euro. Mi hanno mandato un articolo, diciamo, equivalente ma che non aveva quelle caratteristiche. E gli ho scritto subito un'email di protesta. Praticamente il coso era di non mandare... Non spedire roba simile, se non hanno l'articolo esatto, di non spedire più roba simile. Ma magari c'è stato un errore, non lo so. Io guarda, ti dico la verità, non posso dire il contrario, mi hanno sempre trattato molto bene, ma molto, ho acquistato diverse cose, ma diverse, praticamente l'ho scoperta io come ditta. Poi l'ho consigliata a molta gente, ho comprato i microfoni amplificati, quelli M1000 li ho comprati tutti lì, e sono stato io il primo stasera ad averli, poi ne hanno avuti anche altri che non l'ho visto da me, se l'hanno comprato anche loro. E insomma, è stata una ditta, però l'unica volta che mi ha un po' rotto le scatole è di quell'alimentatore che ho preso da 50 ampere. Quello lì me l'hanno mandato con un difetto che va in protezione quando tu lo accendi, poi aspetti un po', lo accendi, accende e poi non dà più problemi. L'ho mandato indietro, me ne ho mandato un altro, mi faceva lo stesso difetto, gli ho rimandato per tre volte, la terza volta si è perso con le poste e addirittura per ritrovarlo, perché non si sapeva più dov'era, la traccia eccetera eccetera è stata persa, ho dovuto contattare un amico mio che fa il direttore alle poste, quindi immaginati tu. E poi è arrivato, però sempre con lo stesso difetto, e poi allora ho capito che o era la partita difettosa o era proprio la prerogativa dell'alimentatore. Questo me l'ha detto anche un'altra persona che gli fa lo stesso difetto, che non c'è problema, che lo fa perché all'inizio si deve resettare, non so che cosa, qualche problema c'è, però l'alimentatore va benissimo, tiene bene, adesso sto usando quello, va molto bene, diciamo, come 50 a partita. E diciamo che in rodaggio da avanti Antonelli. Meglia, scusate, vi devo salutare che è venuto mio fratello che a quest'ora non ha del caffè e dunque devo servire a riverirlo. Ci sentiamo più tardi, se ci sono, oppure ci sentiamo pure domani. Grazie, già, ci sentiamo domani se coincide. Grazie anche a te, tra domani. Beh, allora io fino alle 5 ci sono. Poi vedi tu, allora che puoi passare, fino alle 5 e poi rientro la sera, non so, dopo meno 10. Se poi vuoi passare a Liliana, glielo ho già detto, quando viene glielo dai. Quello è il problema, so che domani alle 7 deve essere giù lì a Muros. Adesso vediamo allora che finiamo, quello proprio l'orario non te lo posso garantire. Speriamo anche prima, non mi sembra vero, comunque. Appena finisco poi ci faccio un salto, 5 minuti, lo prendo e lo porto via, d'accordo? Buon proseguimento, ci sentiamo domani. Ciao Marco, buonanotte. Ciao Antonio, buonanotte anche a te. Tonello, buonanotte, alle prossime. Marco, ma la voce com'è? Chiara? Io la sento chiara. Dirò, per rispetto al Kenwood, io preferisco questa, ma sai perché? Questo apparato riceve abbastanza toni bassi, Kenwood a toni bassi, più la ricezione bassa di questo, c'è a volte un po' no? Questa è una ricezione invece con toni medio-alti. E francamente la preferisco, poi ognuno ha i suoi gusti. Beh, infatti sembra una cosa diciamo personale. Ah, adesso qui va molto bene come apparato, niente da dire. Ora, 1, 2, 3, prova. Quanto ti arrivo di segnali di Marco Condo? 9:30. Questo è il Connex 4000, mi segna giusto, tra virgolette, con l'altro arriveresti 9:25 e qua 9:30. Comunque, siamo vicini anche. Ma ora subito va molto bene. L'unica cosa che c'è questo apparato che soffre di deriva termica. Ah, quando scalla slitta un po' in frequenza? Sì, fa 50, 51, sempre lampeggiando, non è che slitta la frequenza, si muove solo il frequenzimetro e basta, però la frequenza rimane sempre la stessa. Ehi, casomai si può centrare appena, basta solo la ricezione, tanto in AM baracchine hanno una ricezione abbastanza larga. Fuori di un kHz o più non si sente. In più il Galaxy Pluto di allora aveva quel problema, c'era il frequenzimetro, scalava terribilmente e andava a influire su una cosa, praticamente scivolava la frequenza. Praticamente bastava centrarlo tutto lì, una volta che scaldava lo centravi e andava bene anche in banda laterale. Quindi questo, io su quello lì l'ho centrato, non si muove più, Però sin quando lo centri bene, l'ambizia, adesso puoi dire, è fermo a 27.075.0, qui lo faccio a .0.1, ma forse l'ha centrato anche male il coso, Java. Allora, cosa stavo dicendo? Aspetta, ho parlato del Pluto, mi volevo riagganciare a un qualcosa, ma non mi viene, non mi sovviene. Va bene. Praticamente mi ha detto che il Pluto aveva lo stesso questo problema, che andava a scaldare facendo spostare la frequenza. Ecco, appunto quello. C'è gente che quando vai a fare DX, no? Un apparato, diciamo, può essere più o meno centrato, no? In trasmissione. E felici siamo. Quando vai a mandare laterale, senti di solito che ti dice, non sei centrato. Sta chi riceve in manda laterale centrare la stazione ricevuta. Cioè non sei tu che ti devi centrare ogni volta, perché è capitato più volte che facendo qualche DX con l'Italia. Cioè il solito scocciato, no? Non sei centrato. E clarifiera a cosa serve. capito, c'è gente che non ha capito e manda laterale, devi centrare col clavifier in ricezione, non è che si deve centrare chi è in tradizione. Diciamo che chi può lo fa, sia un Kenwood sia un apparato di quelli nuovi, no? Che hanno anche, mi pare, non so se viene 10 Hz o 50 Hz. Però per un apparecchio come questo non è che ti puoi centrare tu, perché anche non hai frequenzimetro, non sai l'altro come riceve, poi conta che potrebbe essere anche l'altro che è decentrato in frequenza e quindi è un problema suo. Sì, ma se si è in tanti e gli altri vicini sono centrati in tutti e uno solo lo senti male, vuol dire che è quello lì che non è centrato, mi capisci? Quello sì, però i baracchini, diciamo, hanno quello. Io ti porto, che ne so, 10 baracchini con la mano laterale, ognuno ci avrà la sua centratura, non è come avere il Kenwood. Infatti, perciò diciamo, compriamoci il Kenwood, tu ce l'hai già, adesso tocca a me. Così me lo sbatto, ci sbatto dietro. Ma su, allora, fammi fare il conto. Potrei essere a quota? No, 200 no. Me ne devono entrare altri, io credo di arrivare a 250, a breve. Perché se ti interessa c'è una persona che sta vendendo il 440, è nuovo nuovo. Quanti proprietari? Mi sa che lui sia il secondo. Però sempre proprietari che hanno trattato bene. E pompa forte, perché quello c'ha anche i finali a MOSFET. Quindi vuol dire che è stato modificato? Tutto male. No, io se prendo roba da Magifone, che sia originale, ma modificato, con scatola, con istruzioni, con un anno di garanzia. Prendi la Magifone. E cosa ti vuoi prendere? 440? Adesso è un'ipotesi che sto facendo, già. Sarebbe bello il 440. A me l'accordatore incorporato mi interessa lo stesso, perché almeno puoi accordare l'antenna CD su bande da ricevere, in poche parole. Se riesci a centrare in ricezione su bande da ascoltare è già buono, perché se no mi tocca mettere un dipolo oppure long wire, dai, il cavo singolo. Guarda, proprio l'altro giorno ne stavo parlando con Claudio, ci siamo trovati al quadrato, ne stavo parlando proprio di quello. Il Kenwood 440 è un bellissimo apparecchio, però c'ha questo tipico difetto che prima parte il fucio. E quando parte quello c'è un burro a base, non è che ne hai altri usati, magari che puoi togliere la scheda da un altro e metterla lì, capito? Perché se no non si può riparare, costa di più la scheda che l'apparato. Mentre invece 430, 680, 140 sono più alla mano, vanno bene lo stesso e hanno meno difetti. Quindi mi troverei a comprare un apparato vecchio di 20 anni o 25 che in più non ha pezzi di ricambio, o almeno pezzi di ricambio a prezzi abbordabili. Allora non esiste proprio, non esiste dare vecchiume che non ha parti di ricambio. Guarda, io quando ho avuto un po' di soldi ho pensato di comprarmi un 440. Poi ho detto, chi me lo fa fare? Sono apparecchi sempre che hanno 20, 25 anni, 30 anni. Me lo compro nuovo, più o meno allo stesso prezzo, però c'ha tutti i componenti nuovi e me lo sfrutto. Quello lì, se si rompe un pezzo, e così ho fatto, mi sono scelto il 980. Il 980 che è un apparecchio della Magnum che, diciamo, innovativo, ne ha fatto pochissimi di 980, tanto è vero che in giro non se ne vedono, forse la stessa dicevo solo io, senza forza. E io naturalmente, adesso io premetto che un baracchino ho speso 250 euro, cioè il come si chiama, l'Albrecht AE 5008. Se avessi saputo a cosa andavo incontro, non l'avrei mai spesi, perché poi due anni ha avuto questo difetto qua. Allora, 5 mesi in garanzia. Quando arriviamo al 5 settembre, sì, saranno 5 mesi che è fuori, perché lì di Magic Font se lo sono tenuto 2 mesi, senza far niente. Dopo 2 mesi si sono accorti che loro non lo potevano riparare, allora l'hanno spedito alla CDE, Midland, no, come lo vuoi chiamare. Quindi 2 mesi da Magic Font, 3 mesi alla Midland, qua non si sa niente, non mi dicono niente, non chiedono nemmeno loro, dito. In poche parole, il prezzo che io spenderei massimo per un baracchino è quello, 2,50, non di più però, perché il baracchino non è un tempo per dire, no, è una cosa molto più ridotta. Dipende, diciamo, dalla voglia, dalla possibilità e tutto. Io in quel periodo ho avuto la possibilità di farlo e l'ho pagato 478, 400, e vabbè, mi è venuto più di 500 euro con la spedizione. È una bella, è una spesata, diciamo. Per esempio, io dopo questa delusione dell'Albrecht, che può darci che sia, aspetta il camion, può darsi che sia colpa mia, che non mi sia accorto di qualcosa, che si sia rovinato per rientri del RF, per qualcosa del genere. Però, ora come ora, 160 euro spedito, ti prendi un Superstar 3009, cioè sia col display rosso e la luce gialla, oppure col display blu, come quello che ho preso io. 160 euro spedito e ti arriva a casa. Ed è un apparecchio che ha componenti classici, quindi molto più facile da riparare. Non è SMD, perché sai che certe persone l'SMD non lo trattano, invece quello ha tutti i componenti classici, quindi ancora possono aggiustare i soliti rivenditori, diciamo. Lo so, no, ma diciamo che quello SMD, se hai le attrezzature, qualcuno è fascia, se ha l'attrezzatura. E sono componenti piccolissimi, sono più difficili da aggiustare perché sono piccoli componenti, lo capisci? Lo so, ci vuole più precisione, più attrezzature, mi pare il saldatore d'aria calda, mi pare che sia quello. E poi ci vogliono laboratori che comunque lo fanno, perché per esempio la Magic Phone non ne riparavano. Hanno parlato di processore centrale, mi pare. Potrebbe esserci stato comunque un danno al chip principale, quindi vabbè, quello li capisco, giustamente loro non lo potevano aggiustare, quella è roba della CTE. Poi io il 5 novembre chiamerò e gli dirò: avete notizie, non avete notizie, dovrò orientare prima o poi l'apparato, o riparato o me lo cambia, perché era in garanzia. Beh, certamente sì. Ma tu lo stai telefonando, non le stai rompendo le scatole, io per l'alimentatore li telefono a voi ogni settimana. No, ogni settimana no, io chiamo una volta al mese, capito? Una volta al mese basta, i domini sono lunghi. Adesso semmai me lo sostituiranno, penso che me lo sostituiscano con l'Albrecht 5890. Sì, mi pare si chiami così, 5890, cioè esattamente, che è il sostituto di quello lì, è simile, c'è qualche funzione più nascosta, diciamo. Detto che, se avessi saputo appunto cosa andavo incontro, mi sarei tenuto i soldi in tasca, mi sarei preso un Superstar 3009 già da prima, che funziona meglio, e tutto il resto, collaudatissimo con la IPT 3006, la solita scheda. Ma perché non ti compri una bicicletta e vai a fare a pedalare? Mi hanno suggerito di comprare una bicicletta e andare a pedalare. Avanti Antonio. Provincia. Perché andate a pedalare, andate tutti e due, ma quando mai? L'Albrecht, non ho capito niente di quello che hai detto. Comprati una bicicletta che fa bene, vai alle pedalate mattutine della Sassari come si dice, stasera infatti bella. Quando mai, non te ci conosci così, così. Buonasera, signor Gondino. Buonasera, saluto Gianni, ma saluto soprattutto Marco, che è una persona, adesso a parte gli scherzi, persona di spirito, e so, mi trovo bene perché so di poter scherzare senza che si offenda. Sì, vabbè, stavamo parlando di apparecchi SMD e apparecchi componenti classici. Caso strano, dopo circa 2 anni, allo scadere la garanzia, si è guastato l'apparecchio CB. Roba grossa e non roba da poco. E ce l'ho 5 mesi fuori. Che apparecchio è? È un Albrecht AE Scoliempoli 5008. È un piccolo apparato 400 canali AMFM SSB, un piccolo, tutto SMD. Ma in qual è quello piccolino che sembra un pacchetto di sigarette? No, è piccolo come un autoradio. Guarda, se vai su internet, Albrecht 5008, play azzurro, frontalino abbastanza piccolo, è più lungo che largo. Come una cosa che c'ho io. Ma quanto costa? Allora, all'epoca costava 2,49, adesso costa 2,19. Ma dove ce l'hai, tu? Già lo sai, non fare finta di niente. È vero, si è passato per altra cosa. Ui, ui, dimmi tu. Però, vabbè, è che io non entro in merito, però... Sono sempre dell'idea che bisogna sempre aspirare un attimino al meglio, ispirare al meglio, quindi l'idea è questa, ma se vi piace determinate cose, ma perché non vi prendete la patente direttamente e comprate apparati Siri che già con quel prezzo escono? E a tu, era stata un'idea, però io praticamente non posso far fronte alle spese di vari apparati per le varie frequenze, le antenne, cosa non trascurabile, che se vogliono tenere buone di pagare, il tetto che io non voglio invadere con dipoli verticali e balle varie, capito? Troppe spese, è una cosa abbastanza costosa fare il radioamatore. Guarda, il radioamatore sicuramente, però si può sempre iniziare andando a rubarle le antenne. La maggior parte dei terrazzi condominiali dove sono messe le antenne dei radioamatori sono aperti. Tu vai una tagliata del cavo e dopodiché ne stacchi l'antenna, magari in un giorno dove senti che non sta modulando, e te la porti via. La prima cosa è fatta. Vabbè, si può dire scherzando, ma così non va. Capito, costano gli apparati, costano le antenne, a meno che uno non sia contenti di andarsene sul ponte Cesar con VHF, ma lì allora è meglio stare al baracchino. Sul ponte Cesar mi avrei sentito, ci sono stato, non è male, ma comunque non è solo da dire, è anche da fare. L'antenna di Gianni, a chi pensi che l'abbia rubata? Là ti dice Paoletto Falcone. Ah, Falcone l'ha rubata. E allora, io ti ho tirato l'accordo, l'ho buttato a giù, ma l'ho portato a casa. No, però l'accordo gliel'avano già tirata giù qualcuno, tu sei andato a raccoglierla e basta. Chissà chi è stato, che ha avuto il coraggio di tirargli giù l'antenna, Falcone. Non lo so, ma già lo sapete sicuramente, adesso non mi ricordo il nome, tu eri stato, no? No. Io già lo so, con la macchina ho legato la corda e via, blu! Sicuramente era qualcuno molto disturbato da Falcone, ma inizia con la M il nominativo, no? No. Io già lo so, ma non gli dico frequenze. Dai, diciamo le malefatte fatte a Falcone. Io ne ho già giusto un paio da dire. Allora, al compleanno di Falcone gli ho regalato una torta a forma di uccello, dentro una valigia bella confezionata e con la crema che riusciva a lavorare. Cioè, una colomba. che cos'era? Un uccello, una colomba? Una colomba alla crema? Sì, era una colomba, l'uccello che c'è tu davanti a forma di uccello. Ecco la crema che usciva davanti, è entrata in frequenza. Oh, oh, oh, mi hanno fatto un regalo! Se la sarà schiaffato dietro. Sì, sì. Era poco contento, contento. Alla forma, ve lo dico! A tu, praticamente gli hanno regalato un enorme pene di pane pieno. Ho capito, mi Marco. Lo faccio il tonto, ma già non lo sono così tanto. Aspetta, c'è qualcuno che sta cercando di entrare da sotto. Un attimo di piano. Che propagazione. E beh, tutti qua li hanno indotti. No, qualcosa di più. Una volta gli hanno fatto lo scherzo del fantasma. L'hanno fatto uscire di notte e poi hanno fatto uscire gente di fare volenzoli. Dice che questa ha cominciato a correre, manco un Bolt. Sì, dice che toccava le piedi nel sedere. Quando corre, ogni assi si abbiglia. Una volta in piazza casa avevano fatto mettere il sombrero, un sombrero di quelli messicani. E ha detto, dai Paolo, adesso vai a avvisare tua madre che andiamo in pizzeria, se no si preoccupa. Lui andava a entrare nella cabina, ragazzi, questo cappello spingeva le porte e poi burri, trova dentro e umiliava la faccia. Allora ci ripentava, l'ha fatto due o tre volte. E una volta sono andato anch'io al Saracena a mangiare la pizza con lui e altri tre o quattro, no, forse eravamo una decina di cibi. Ci devono essere anche delle foto, ma che santo Lazzaro. No, io non ci sono mai andato, perché avevano fatto questa voce che li facevano pagare la pizza a tutti, rifuravano il burro. No, io ricordo che già me l'avevo pagata, però... Vediamoci chiaramente, poi alla fine sono cose che fanno ridere se fatte in un certo modo, però con il senno di poi, col senno di un quarantenne ti dico, però mi ci vedrei adesso a fare scherzi a una persona che allora forse aveva 30 anni, 25 anni, malato. Non so perché, ma c'era gente che lo faceva uscire di testa, ma cioè, stiamo parlando sempre di una persona che aveva qualche problema. Evidentemente sai, questi che gli facevano determinati scherzi, che cos'erano? Peggio di lui. E appunto, finché si scherza, lo si prende in giro in un certo modo, va bene, però c'era gente che ci voleva, capite? Erano dei poveracci peggio di lui che si dovevano fare forti coi deboli perché sennò non avevano motivo di vita. No, ma diciamo che quella più grossa che gli hanno fatto è mettere in gutta la roba da mangiare. Dice che poi per portarla a casa gli hanno dovuto mettere gli elastici nei pantaloni perché gli scendeva a tre parti. Non erano gli elastici, gli avevano tolto i lacci delle scarpe e gli avevano legato i pantaloni. Allucinante. Quindi ne avevano fatto un po' di cose. Poveraccio. Ma mi ricordo che quando lo conoscevo in verticale era un bel vergognoso, sempre ben messo, ben tirato, maglietta Lacoste, pantaloni Levi's, tutto bello tirato, lo vestivano bene. Non è che lo trascuravo, ora dico la verità. Però lui era molto vergognoso, abbassava la testa, chi sì? Paolo Francone, a Cabobasci. E dai, poi siediti in macchina, un giorno all'aeroporto che se c'era, andando a Polotto, non so se ti ricordi, anche c'era quel vascone dove lavavano tutte le macchine prima di arrivare all'incrocio della cantoniera lì, c'era un vascone, lavavano tutte le macchine. E mi sono fermato io a lavarmi la macchina. E ero con Paoletto, E a un certo punto mi sono inchinato lavando la macchina e mi vedo a lui, era seduto dentro la macchina. Non posso solo fare lo stereo, solleva lo stereo. A un certo punto lui con lui ci attaccate al parabrezza. Ha detto, ah, stai facendo? Non mi dire niente. Poi ha detto, mi non dire niente che sei uscito con me, se no mi prendono in giro. No, non dico niente, lo più lungo. Lo accompagno a casa, io a vostre baracchino in macchina, che se con me c'è del baracchino mi sento, non sapete con chi sono uscito? Sfruttato. Comunque aveva ragione, ma c'è sta persona. cui nominativo inizia con la M, che a dargli corda ci perdevi solo, perché lui è andato, l'ha portato alle partite, l'ha portato qua, l'ha portato là, e quell'animale mi ha detto di tutti i colori, frequenza, capito? E persona, Paoletto, che si girava, prima lo portavi fuori, farlo di strada e tutto il resto, e poi ti faceva pezzi in frequenza. Questo l'ho provato anch'io, eh. Sì, a me mi ha detto che aveva fatto l'amore con me, non so che cosa, mi ha detto che mi in giro, non eseguito. Perché a me Falcone, sì, è riuscito a farci dare il numero di telefono, ma poi mi ha fatto sputare veleno, Mi ha fatto sputare veleno perché lo dava in frequenza, mi telefonava anche di notte, brutto coglione, la portante. Allora, visto che diceva che ero sempre io, allora portante, anche io gli ho messo la portante. Che cazzo, lo sentivi, ovunque andavi lo sentivi, e usciva forte da tutte le parti dove l'ho parato. Era una bottenza in giro. Ma quanti a tu? Ma continuate a parlarne, mi sono sentato un attimino mentre stavate. Continuate a parlarne come se fosse una persona sana di garbo. Era una persona completamente svarionata, capito? Sì, ma infatti, non era giusto, questo sì, questo sì. Una volta mi ha detto che se io gli davo il portatile, lui mi dava il multimo di due o multimo di tre, cosa ci faccio, non mi ricordo. Dove Falcone è troppo dove, dice ti piace, se mi ha chiamato il padre, era a letto, me lo ricordo come se fossi oggi, mi ha detto queste parole, se tu, se lei dà l'apparato che ci ha portati da Paoletto, in un giorno non lo vedo più, perché lui si distrae attraversando, parla con questo apparecchio e lo mette sotto qualche macchina, tu lo, lei lo sa, si mirava di lì, lei lo sa che io sono malato e cosa. E Paoletto è nato in una casa dove io ho costruito l'impero. Se lui fosse stato sano, qua avrebbe avuto tutto ciò che voleva. Tutte le soddisfazioni, tutte le cose, non può fare lo stesso, però se è limitato, perché non è una persona che può godersi le cose. Purtroppo dice nato malato e cose, e io non ci posso fare nulla perché tutti i fratelli sono sistemati. Mi ha detto guarda, non glielo vedo a quella parte, io mi scuso con lui perché l'ha fatto venire per niente. Io ho i soldi che ho, ne potrei prendere 50 di quei apparati, ma non glieli prendo perché si distrae. Ehi, già ho capito, e ne ho avuti tanti di apparati. Caspita, una volta gli hanno regalato tipo un maiorecco, non un regalato, gli hanno venduto uno di Loculento e sono andati a casa sua per dirgli di riprenderselo perché non potevamo fuggire in nessun canale perché c'era sempre lui che ci seguiva e ci metteva la portante. Allucinante. E poi l'ha ripresa? Sì, sì, è andato a casa sua, gli ha riportato i soldi e si è ripreso l'apparato. E si chiamava Agnella questo, durato poco e niente. Zona Loculento, faceva l'assicuratore. E va bene, ne ho conosciuto tantissime persone. Ma poi io c'era un periodo che non mi facevo conoscere da nessuno. Mi piaceva proprio questo distacco che c'era al di fuori della frequenza, capito? E tu ti immaginavi la persona, com'era, come non era, magari per la vita diversa, però c'era questo, non so che, di mistero, capito, dietro il microfono. Pensa alla volta che l'ho conosciuto io. Ho trovato questo tipo che era una via di mezzo tra Teo Teoccoli e Adriano Celentano. E io ne ho conosciuto circa. Ho conosciuto questo qui che si chiamava, aspetta, come cavolo si chiamava? Non mi viene il nome, però tutto va a chiamare Bovaraccio. Io sono tutti guastici, infatti. Antonio, tu non stai partecipando attivamente alla discussione, però. Non ti cerca compagnia, Marco. Arrivo subito, sto mettendo in frequenza una cosa. Che l'immagine che ti ha detto Marco Cone, che sono tutti quasi cibi. Ha detto, non ti cerca compagnia. Beh, ognuno ha le sue manie, le sue perversioni anche. E quella anche nella vita normale, così. Soprattutto, caspita, sono maniaco, Gianni non lo so cosa sia. Io sono Gianni il caldo. Latin lover. Io conquisto, non faccio il maniaco. A me piace l'approccio. Mi piace l'approccio, cosa? Mi piace l'approccio. L'approccio. Lei, secondo voi lo scherzo peggiore che gli abbiamo fatto a Paoletto? Ci guvinano i battutanti. Io una volta sono entrato facendo un'altra voce, non mi ha riconosciuto, mi ha detto chi sei, sono nuovo, mai, e quanti anni c'hai? Io gli ho detto 17, e tu mi dici, e come ti chiami? Qual è il tuo nome? Di voi, orgasmo. Ora andate a cercarmi il giorno dopo tutti i canali, avete sentito orgasmo? Che è successo? Ma comunque è stato il tramonto di un'epoca, eh? Il baracchino in genere, come era prima, e tutti i suoi componenti. Lo sarà e lo continuerà a essere sempre, se qualcuno lo vuole. Se siamo quattro gatti, sette gatti, dai. Ma come si fa a parlare così, Marco? Se tu dici non entra nessuno, l'altro dice non entra nessuno e non c'entra, l'altro dice non entra nessuno e non c'entra, alla fine la frequenza se ne va a farsi benedire, invece entra, ne trovi uno, poi dopo uno viene l'altro. Ho visto come è successo oggi, c'era Antonello, ha girato la ruota, è entrato Bulldozer, è entrato quello, è entrato l'altro. Non dico che ci siamo stati tantissimo, però una chiacchierata ce l'abbiamo fatta. Beh, quello sì. Io la verità oggi ero a casa e inoltre non c'erano nemmeno film che avrei voluto vedere. E allora sono entrato, ho trovato voi due su 10. Ma infatti io di solito se non sto all'apparato o mi faccio ascolto la frequenza radioamatoriale oppure mi guardo di Max. Qualche cosa la faccio sempre, ma dico, preferisco stare sdraiato al baracchino parlando che piuttosto che guardarmi di Marco che mi dromo. Un bel di volte mi trovo addormentato e mia moglie mi sveglia. Che al baracchino ti drommi? Gianni drommi. Mi drommo. Che ore sono? 10:50, fra poco vado a mangiare. Ebbene, guarda che è pronto. Patata asciutta. Ma come fai a digerire se mangi così tardi? Spiegamelo. Io digerisco sempre già. Cioè che tu mangi alle 9 o alle 11, per me non cambia. Il mio stomaco digerisce tutto. Sì, il stomaco ne fa qualche anno. Fra qualche anno sarò morto. Mi esagerato. Magari ti sarà morto la... Non essere ottimista, cosa vuol dire fra qualche anno? La chicchia. Che devi essere così ottimista, futti dinni. Quanto, ma non c'è nessuno all'ascolto, non vorrei essere scurito. Non c'è problema, già sono in cuffia. Ah, per quello che avevi già detto, io mi stavo mettendo le cuffie. Chiodo. Che bastardo di sì. Cos'è che ha detto? Ha detto che ha preso un chiodo il suo organo genitale. Aspetta che abbasso la potenza, come sto uscendo adesso? Sto uscendo bene. Hai capito, hai capito. Non a me si è arreso Grudito, ma cosa? Marco Corto. In pratica ho appeso l'uccello al chiodo. E adesso va a essiccarsi. Ehi, lo mettiamo al sole. Dice sì, che poi lo usiamo per fare tipo bottargami. Sì, ma magari ci fiaggusa. io tipo Gumari. Male ci sono entrato. Meno male. Ma come si fa più questi discorsi? Non forse è andato al circolo. Al circo? No, se lo vogliono vedere devono venire a casa a vederlo. Una volta c'era Gianni di Luna e Sole, no? E diceva che sentiva un radiomicrofono, no? Su un canale CB. Dice, il circolo, il circolo. Ho detto, ma quale circolo? Il circolo Beracciao. Dice, no, il circolo, quello dove c'erano gli elefanti, i domatori. Il circolo, la cassa, perché chi altro dice circolo, lo chiama circolo. Radiatore, mi non so se abbia copiato, comunque radiatore. Ciao, lo so, dopo dice esatto. Mamma mia, questo dindon. Oh, una volta si era attaccato con mamma anche. E ha detto una cosa da rozzone e mamma gli ha detto che non rozzone, rozzone sei tu, eccetera, e si è offeso. Adesso mi ricordo come faceva Beffa Gambero, Gambero, te lo ricordi? Altro che, quello diceva negativo, negativo. Che diceva che faceva un lavoro strano, che lavava la sabbia all'ora industriale. E lui è entrato, signora Gambero, suo marito ha messo incinta mia cugina e non se l'ha sposata, è un grande delinquente che ha fatto la moglie, non si deve permettere di parlare così di mio marito, signora Gambero, la chiamava signora Gambero. E beh, per abbonire è entrato Walter. Buonasera signora, venga avanti. E lei gira di me di coglioni. Chi? La moglie di Gambero, stava ascoltando. C'era Walter tutto serio, no? Però buonasera signora, venga avanti. E quel gira di me di coglioni. E ogni tanto c'era la cosa di turno, Sandokan, Radio Galera anche. Radio Galera, poi su Bastore, su Bastore costola. No, comunque ti spiego una cosa, Radio Galera non era il suo nominativo, lui aveva un suo nominativo. Radio Galera era il nome che gli aveva dato quello che lo sfotteva, perché questa aveva trovato la figlia approcciando con uno e l'ha ammazzata di botte e mi pare era stato in galera. E allora lì lo chiamava, vai Radio Galera! Sì, ce n'era più di uno che era stato dentro. Sì, ma ce n'era, lui una voglia. C'era un bel di cose, credo. Beh, mondente, infatti non so come si faccia ad avere nostalgia dei tempi passati. Infatti, quello che dico io. Vabbè, avevi la prerogativa di scegliere il canale che tu volevi, facevi un po' d'ascolto, vedevi la gente che c'era e giravi, così facevo io perlomeno. Quando trovavo gente come si deve mi fermavo e parlavo, se no spegnevo, non mi interessava entrare in certi tipi di canali. Ne sentivi tutti i colori, i gotti di crude. Ecco perché ti chiamavano Gianni la trottola, a chi eri sempre gli rendi non ti fermavi mai, perché di gente in gamba non ce n'era, lui Già c'era la gente in gamba, c'era Walter, c'era Vittorio, tutti quelli lì, io mi fermavo in canalicini. No, comunque, a parte che c'era gente anche losca, però il mondo è bello perché è vario. Ti sceglievi la gente selezionata, poi era bello ascoltare i bisticci gli altri anche. Sì, vabbè, per essere salici, godere diciamo, dei bistici degli altri, no, no. Diciamo che io avevo la greffetta proprio che frequentavo, andavamo a pescare insieme, ed era Antonello Lucifero, io, Sambuca, insomma c'erano un paio che eravamo proprio amici di greffa, tutti omosessuali, greffa, ragazze e cose, si modulavano, capito? Pensa che questi nominativi non me li ricordo nemmeno. Antonio Lucifero non te lo ricordo. Guarda, su due piedi no, magari l'ho anche sentito, ma c'era troppa gente. Metti di carboni per vedere se te lo ricordi. A 90 gradi. Sei un bravissimo tecnico. È un finocchio. Tecnico? Del ceccio, vero? Ceccio, del computer. Computer, computer. Oia, oia, quando penso, vabbè, non so come, ma sono riuscito a tenere la fedina penale limpida, non so come. Mica ti hanno detto una bugia, mi faccio capire che è un ladrunco. No, ma per poco una volta non mi crepano quel computer. Ovvio. Discali era mia. Cos'eri, un hacker? No, più che hacker lamer, diciamo. No, diciamo mi piaceva entrare su siti e computer in modo non proprio, non con il consenso, diciamo. Non lecito. Pensa che prima non c'era una regolamentazione giusta. Poi nel 2003 hanno fatto la legge e praticamente c'è soprattutto questo comportamento. Ma è giusto, giusto. Se no mi avrebbero fatto un culo come un trono. Perché in che siti entravi, scusa? Che dov'è che non si può entrare? Ma tu avevi la condivisione con altri computer di altre persone o no? No, c'erano degli sprovveduti che lasciavano porte aperte sul computer, tipo NetBIOS ad esempio, oppure che avevano contratto certe infezioni, tra virgolette, no, informatiche. Tu entravi, il computer diventava tuo a tutti gli effetti. Poi da lì trovavi password, poi potevi entrare in altri siti, altre cose, diciamo. E mi fregavo le tesine, dal sito di tesine, che praticamente era a pagamento, entravo con la password fregata anch'essa, mi prendevo le tesine per la scuola. Allucinante. Senti, Antone, tu queste cose mai fatte? Io rubavo le caramelle a nonno e basta. Vedi, ho un amico per te che ti scopre tutte le cose che ti scopre, riesce a individuarti la tua pasta. Credevo che fossero venuti per i file MP3, ti ero anche detto. Cosa? Credevo fossero venuti per i file MP3. Invece? Invece no, dice, ci risulta che lei è entrato in tale sito a tale ora e non poteva essere uno dell'ufficio, diciamo. Ovviamente avevo fatto cliccato roba e fatto sparire le prove, ma mi è andata bene. Sono venuto a cercarti. E cazzo! Beh, sono acceduto a un sito, praticamente roba di uffici che di notte fondano, nessuno entrerebbe, capito? Come hanno fatto a scoprire tu? Perché ero intelligente, entravo a sfondamento. Non è che nascondevo l'IP con router, con roba del genere, entravo direttamente col mio IP. L'IP è come la targa del computer, capito? È univoca. A tale giorno, a tale ora avevo quell'IP, loro si informano e ti piombano a casa. Guardia di finanza, peggio! E vabbè, tu lo sai che non è riuscito a fare certe cose. Senti, Ma se tu poi entri nelle banche, entri all'Inps, entri in uffici così, è logico che ti posi il ferri. Oh, ce n'è di tutti i colori, traditori, cornuti, maniaci anche di una cosa abbastanza schifosa. Ma già gli ho fatto il servizio al computer. Capisco. Diciamo che potevi avvertire chi di dovere, poi se andava bene lo controllavano, se no pazienza. Vedi, questi posti ce ne sono, una volta mi ricordo una video chat, stavo parlando con questo tipo fingendomi una donna. Mi ha chiesto di farmi vedere in camera, no, io ho detto no, preferisco di no, dice ma allora sei brutta, no, non è per quello, perché non mi va di farlo per il momento, prima voglio conoscerti bene, questo e quell'altro, volevo vedere cosa faceva. Ma sai che questo qua si è messo in camera ed era tutto nudo col gatto che era leccato. Ah, merdoso! A parte che era un cane, che non hai visto bene. Come è tu? Era un cane, non l'hai visto bene. No, era un gatto. Era un cane, meglio di me lo puoi sapere. Perché te lo fai leccare al cane? Esofilitico. Esofilitico, te ne mangi? Ti cogli un mosso, hai finito. Oh. No, questo era un gatto, me lo ricordo bene, era pure barriato. Barriato. Ma se ne rivali. Vabbè, comunque, se, adesso vabbè, è roba del passato, ma se entravi in computer le persone vedevi tutti i colori già, una cosa incredibile. Uno era fissato con i piedi, c'era tutto di piedi tutti puzzinosi, arrossati, screpolati, una cosa... Io ne ho trovato una che mi ha trovato una dentiera che le avevano fatto, e un'altra che mi ha fatto vedere la cosa più schifosa che io abbia mai visto in chat, nella video chat, è questa tipa che mi ha detto che è stata in una camera mortuaria e c'era un bambino neonato morto e l'ha fotografato. L'ha fatto. Ha sospeso il computer quando l'ho visto. Ah, quella è gente strana. Forte, forte anche. Ma c'era una cosa che mi sfugge, boh. Vabbè, comunque ho rischiato, Bastava, che ne so, 6 mesi in più di tempo e era passata la legge, ma avrebbero condannato forte. Sì, ma quando sono venuti cosa ti hanno fatto? Ferri ti hanno messo? No, hanno perquisito. Stavano cercando, addirittura siamo portati un CD con tutte le password, nome utente, password fregate. Quello non sono riuscito a... non sapevo nemmeno che fosse lì, capito? Però non ne ho capito niente, oppure hanno lasciato perdere, no. C'era la... Praticamente prima era come se violassi un domicilio, non era chiara. Poi hanno fatto la legge specifica, anche sulla privacy, quindi i reati tutti connessi alla intrusione in computer altrui, dai. Ma questa sera te l'hanno segnalata? No, negativo. Bah. Perché, guarda, in finanza ci sono dei professionisti, io lo so perché ho amici nella guardia di finanza, cioè maresciali e cose che conosco. E mi hanno detto che ci sono dei veri professionisti che addirittura gli hanno spiegato alcune cose, eccetera, eccetera, che riescono a trovarti il pelo più corto che c'è e ce lo trovano. Vabbè, io praticamente trovavi tutto, documenti, curriculum vita, come si chiamano? Carte d'identità fotocopiate, no? Acquisite allo scanner. Io criptavo tutto, criptato con Blowfish, che è un algoritmo di cifratura a 448 bit, mi pare, una cosa tosta. Ancora non l'hanno violato. Vabbè, che questo ci prendevi, Marco, a fare queste cose, non ne vedo un nesso, dai. Era come entrare nella testa della gente, vedevi come erano in realtà le persone. tipo, c'era il tipo chattando con una, con la ragazza, e lei diceva, ma come mai ritardi a rispondere? Non è che stai chattando con altre? Lì, no, no, amore. E c'aveva altre, che ne so, 10 finestre aperte, chattando con altre tipe, lo stesso sbaciucchiandosi. Capito? E tu devi sputtarare, lui mi entra e dico, guarda che la squadra sta chattando con 10 tipe. Addirittura, aspetta, ogni tanto, addirittura uno gli ho fatto la redirezione delle porte, praticamente io sono entrato sul suo computer, ho attivato una certa cosa, praticamente io ho scritto sul forum attraverso il suo computer e risultava che aveva scritto lui. Anzi, scritto dal suo computer, praticamente ti appariva una finestra come se fosse la sua tastiera. Tu cliccavi il testo che volevi scrivere e sul forum scriveva quello che avevo scritto io, capito? E dava la colpa a lui. Ah, sei un cranio col computer. No, negativo. Erano i programmi predefiniti, quando la persona eseguiva un certo file diventava infetta, tra virgolette, gli si apriva una porta e tu entravi col programma analogo. Erano fesserie, guarda, si chiamava programmi da Kitty Script, da ragazzini. Allucinante. Vabbè, comunque è divertente. Diciamo che entri un po' nella privacy degli altri, ma forse anche per quello, oggi sulla privacy ti avrebbe punito di più. Lo so, però è una presa in giro già. C'è la legge sulla privacy, poi la finanza controlla tutto, conti in banca, non ce n'è più privacy. È una barzelletta, da quando hanno fatto quella legge sei controllato in tutto e per tutto, conti in banca, eccetera. Non hai più segreti, quindi la privacy non esiste. Sì, già ci sono i sotterfugi. Fatta la legge, trovata l'inganno, diceva quello lì. Ci sono i modi per non far vedere le tue ricchezze. È un casino, lui dava già pigiani buco. Dava già trovato solo i soldi. Devo si perdere la tredicesima, la quattordicesima, non trovano altro. Va bene, dai. Tengo in QRX e poi vi saluto dopo per il QRT, dai, che mi sto addormentando. Ci sentiamo dopo. Vabbè, abbiamo capito. Cianto, ciao, buonanotte. Ma hai capito? Abbiamo capito. Come c'è? Ci sentiamo tutto abbandonato. No, no, sono stanco. Soprattutto la fame. Trombare. No, c'ho il gonite. E Gianni dice, uia. Vabbè, già, ti porto una foto comunque. Ti porto una foto dimostrativa per capire cosa vedevo io. Ok, buonanotte, stai in quelle P, alle prossime. Avanti già. Tanto, stammi bene. Che ho fatto sentire ogni tanto, non fare l'uomo sugio. Non è quello, che io ormai sono un radioamatore e quindi a volte non posso farmi sentire troppo con i CP, capito? Ma avevo capito. Allora telefono quando sto cagando. È successo, non ci degni praticamente. Già, quello è. Oh yeah. Buonanotte. Non ti ho sentito perché mi si è mosso lo spirito delle cuffie. A chi non è sentito a me o a lui? Sì, a lui di a te, perché si sono diventato silenzioso. Ha detto non ci degni e io ho fatto. Oh, ciao. Ciao. Avanti Marco Conco. Ma quando se la vedo questa uscita, Marta? A pescare? Io la roba ce l'ho se porta nello stanzino, a cercare tutto e vedere anche se funziona. Ho il filo vecchio di 15 anni, mi pare, il filo da pesca. E allora peschi sto pesce. No, 15 no, ma io, no, può essere anche 15 anni, 10 di sicuro. Vabbè, non te lo metti a posto, scusa, non te lo metti a posto la stessa altura. Ma io penso, finché non si rompe è buono. No, io ti volevo far vedere anche il toccai, te l'ho detto che te lo faccio. facciamo vedere e poi non si è più venuto. Ah, vabbè, c'è l'occasione, dai. Comunque quella persona l'ha venduto, L'ha venduto un paio di settimane fa, forse anche tre. Vabbè, tanto già non ho lasciato stare perché 70 euro per un apparato vecchio 40 anni è troppo. 40 anni, non so se mi spiego. Vecchio, deve dirmi io, è fiammante. È fiammante, no, ma nel senso che la tecnologia, insomma, è un apparato del 73. Fatto un 73, quindi certi componenti immagino si trovino nemmeno più. Sì, si trova tutto. Ma i componenti che usano adesso. Non ha niente di che. E oltretutto è fatto molto meglio di apparati nuovi che fanno adesso. Vabbè, poi io ce l'ho. Ho il dente avvelenato contro l'SMD. Poi sai, io ho apparati vecchi, ho l'FM500, 548SX, questo che è componenti classici, Superstar nuovo, componenti classici. Poi ho un 48 XL Multi che non so se sia componenti classici o SMD, misto addirittura, quando c'è stato quel periodo di transizione. Cresce bene come apparato. Speriamo che duri. Io c'ho il 48 Plus. 48 Plus Multi? No, Multi. 48 Plus. E sarebbe la versione digitale del 48 normale. Eia, non ho fatto il 48 Plus Multi. E dovrebbe essere multistandard, cioè puoi andare sui canali tedeschi, beh, hanno anche gli 80-40 canali sotto, in FM 4 watt, puoi andare in Polonia che hanno lo 0 finale anziché il 5 finale, e puoi andare anche in Inghilterra che hanno praticamente anziché il 5 finale hanno lo 0-1-2-5 finale. Per esempio noi siamo su 27.075. Ah no, però conta una cosa, iniziano dai canali alti i loro canali, dal 60 in poi. È come se qua fossimo sul 27.071.25. Ho capito, il numerato di versamento della frequenza, per farla breve. Comunque so che questo che c'ho io si può modificare, spende i tasti, si può modificare e farlo a 400 canali, ma non l'ho mai fatto. E quanti canali ha adesso? 40. Male, va subito espanso. Un apparecchio così è fatto per le bande, come si dice, per la SSB. Non è mai sprecato. SSB non è a bande laterali mio. Ah, ma tu stai dicendo il 48 Plus. Sì, il 48 Plus, basta un ponticello, basta staccare, tagliare un filo, fare un ponticello da un'altra parte. E adesso con 400 canali. Ah, ho capito, no, pensavo a quello che stai usando adesso. Sì, è vero, ci sono, siamo logati, quando lo espandi addirittura ti fa dai 25, 165, ai 29, no, arriva ai 30.105 mi pare. Figurati. Per esempio il 48 XL Multi fa dai 25 e tanti, tipo 25.165 ai 30.105. È buono. Solo che chi ci va su, e poi ricorda dai 30 in poi è banda è riservata dai 30 in poi al Ministero della Difesa. Go. Vabbè, poi qualcuno ha provato ad andare sui 20, oltre i 29.7, perché fino ai 29.7 è amatoriale, vai 29.750, 7.80, 29.8 volevo dire, 29.9, è una specie di banda pirata anche lì, ma non ci va nessuno, che scopo ha? Vabbè, si sa che c'è. Tanto mi già, qua i canali abbondano, è solo un canale occupato di solito, quindi abbiamo a furia dura di canali. Infatti, puoi scegliere quello che vuoi, 40 canali per lei e vari buchi. Oia, mamma, chissà che rientri questo apparato, mi ne voglia di sbatterlo sotto i piedi, guarda. Comunque secondo me qualche escamotage per non farmelo in garanzia lo trovano. Perché nasce omologato, ci siamo, 4 watt, 40 canali. Il venditore l'ha fatto 10 watt AM e 20 SSB. Quindi io non so se il venditore lo possa fare, lo possa toccare, diciamo, e pur tenendo la garanzia. Quello è una cosa che non ho mai capito. Perché c'è un sigillo di carta, quando lo apri il sigillo di carta ovviamente viene rotto. E non vorrei che come ultima risorsa utilizzassero questa storia, che non è in garanzia in quanto toccato dal venditore. Vabbè, prenderanno ancora senza dubbio. Il venditore non lo può toccare, lo deve dare come lo costruisce la fabbrica. Se lo modifichi presso la garanzia. Solo che mi ha detto niente, no, per quello non credo che abbiano trovato storia, ma non vorrei che piuttosto che darti un apparato nuovo magari dicono che è toccato e quindi niente da fare, ma vediamo un po', spero non siamo dei meschini. Io comunque devo dire un apparecchio di parico adesso, perché poi ti ha fatto aspettare tanto e tu magari per non andare bene. Se è una cosa grossa spero che lo cambino direttamente a costo di venderlo, perché tira più di tanto e prendi un QRM che non ti dico, meglio prendi il QRM dalle cose elettriche tipo le insegne, neon, cavi alta tensione, quello sì, è come un omologato, prendi lo stesso QRM di, che ne so, un FM500S e non è poco. Io vedi qua, con questo apparato qua, QRM proprio non ne sento, è una cosa vedi. Ma con questi apparati anche Santiago 5, dipende anche dall'apparato, eh. Lo so, certi apparati nascono silenziosi, per esempio, sia questo, il Comex 4000, che è il Superstar 2009, sono abbastanza sensibili ma allo stesso tempo non rumorosi. Per esempio io metto questo apparato, il QRM per esempio è Santiago 0,5, metto l'FM500S, il QRM 4,5 per dire, capito? Però che l'FM500S ne ha avuto due in vecchia data, non adesso, particolare come è fatto le cose dei canali che rimane un po' arrotondato, fatto. Comunque quello lì lo sai che se vuoi lo puoi fare a più canali, basta che tu forzi la manopola dei canali, la forzi con un fazzoletto e una pizza, spacca il bloccaggio e ti fa andare avanti i canali. Oh, ma una cosa così no, magari c'è una modifichina misera, praticamente dal 30 al 10 al 19 con la levetta vai sul dal 30 al 39 in pari, e poi se vai tra l'1 e il 2 metti, quella è una cosa sua, lo metti tra l'1 e il 2 ti fa il 40. Sì, quello io lo so, ma a me me l'aveva fatto un camionista di fuori, ho detto, stavo parlando di apparati, gliel'ho fatto vedere quello che aveva in macchina con l'FM500, ma lo sai che modifica si può fare a questo qua, in 5 minuti te la faccio, ah, che cos'è, i canali, si possono modificare i canali, se la faccio, non so quanti canali, poi 80, non lo ricordo, ha preso un fazzoletto, ha messo dove c'era il coso dei canali, ha preso una pinza, forse ha detto, tac, questo apparecchio è fasciato. No, adesso accendilo. Prendi, gira, e se arriva va, ti disegnava pure. Oh, quindi avrebbe solo un blocco meccanico, ma non sapevo questa storia. Di solito certi apparati mancano proprio le resistenze, non sai, proprio i contatti. Allora devi cambiare il selettore. tipo il, mi pare fosse l'Alan 88, mi pare, aveva una cosa del genere, dovevi cambiare il selettore, se non sbaglio, sempre se non sbaglio. No, ma io vabbè lo lascio così, perché almeno è quasi omologato, quasi, è così, metto l'amplificato al limite, ancora a trotta. Ma io vi ricordo che però c'era qualche canale che lo ripeteva due volte. Con quella modifica, magari era una cosa così, insomma, approssimativa, magari si accalavano due contatti. Poi ho anche il 548 CX, quello grigio, e quello gli avevamo montato la sua scheda intake col suo selettore, che dovevi mettere sul coperchio. Il coperchio aveva praticamente un'incavatura col coperchietto in plastica, tu toglievi il coperchietto e mettevi l'interruttore, ed era 120 canali, 40 sotto e 80 sopra. Adesso che fanno mai queste modifiche, se vai su internet te le descrivono anche come farlo. So che, vabbè, sono sempre ho apparati così, fascia bassa, grossi anche abbastanza, già riceve, ma il QRM è un po' più alto, insomma, anche, soprattutto se becchi lo stesso, cose elettriche, torri elettriche, insegne al neon, tutte quelle cose elettriche. Oh! Tu stai perdendo colpi, ti stai addormentando. C'è un sito addirittura che vende l'Alan 88S nuovo, omologato. Deve essere una rimanenza di magazzino. Però lo stanno dando 196 euro, ma cosa credono di fare? Guarda che è nuovo, ma è di 15 anni fa quell'apparato, mi pare. Nuovo in Baresano. Ma dalla foto è nuovo. Sicuramente è una cosa di magazzino, magari è rimasta in qualche magazzino per anni e anni. Se ne sono accorti e lo stanno vendendo. Immagino sia nuovo, ma il venditore ha del feedback tutti al 100%. Cioè, voglio dire, al 100% di feedback. Sembrerebbe affidabile. E poi è un venditore che magari non conosci molto. È un venditore eBay. Si chiama Radio Smitter. Sveglia! Va? Dormi, dormi. Io? Tu stai dormendo, di la verità. Ma mi si stanno calamagliando gli occhi. Vabbè, dai, ne approfittiamo per chiudere. Io adesso mangio. Buonanotte, ci sentiamo le prossime. Ciao, ciao, ci sentiamo. Buonanotte a tutti, anche agli eventuali SWM, nonché a Reci di Buco. Ancora qui sei? Miau. Notte. Notte.